Capitolo terzo. Il piccolo Lawrence. «Joe, Joe, dove sei?» gridava Meg in fondo alla scala della soffitta. «Qui!» rispose dall'alto una voce velata. Meg salì la scala di corsa e trovò la sorella che mangiava una mela con le lacrime agli occhi perché stava leggendo L'erede di Radcliffe, avvolta in uno scialle di lana e seduta sopra un vecchio sofà mancante di un piede presso la finestra al sole. Quello era il suo rifugio preferito. Là amava ritirarsi con una mezza dozzina di mele e un bel libro e godersi la libertà e il riposo e la compagnia di un topo suo amico che abitava in quei paraggi e che di lei non aveva nessuna paura. Appena comparve Meg, Topolino si infilò fulminiamente nel suo buco. Joe scosse le lacrime che le rigavano le gote ed attese. «Che bella cosa, guarda un po', un vero e proprio biglietto d'invito dalla signora Gardiner per domani sera!» esclamò Meg, sventolando il prezioso cartoncino che volle rileggere lei stessa ad alta voce con giovanile compiacimento. «La signora Gardiner sarebbe assai lieta di avere Miss March e Miss Giuseppina ad una piccola festa la sera di Capodanno. La mamma dà il permesso, adesso il problema è che cosa ci mettiamo?» «Domanda oziosa, tu sai benissimo che ci metteremo tutte e due la veste di Popeline, non abbiamo altro», rispose Joe con la bocca piena. «Se avessi solo qualche cosa di seta», sospirò Meg. «La mamma dice che l'avrò quando compirò 18 anni, forse, ma sono lunghi a passare 2 anni». «Io sono certa che le nostre popeline sembrano seta e per noi sono abbastanza belle. La tua è come nuova, ma nella mia ora non ci pensavo già più. C'è una bruciatura e uno strappo. Come faccio? La bruciatura si vede molto e non c'è modo di farla sparire». «Te ne starai seduta e ferma più che puoi, senza mostrare la schiena. Il davanti è in ordine. Io avrò per i capelli un nastro nuovo e la mamma mi ha promesso la sua piccola spilla di perle. Le mie scarpine nuove sono carine, i miei guanti sono passabili, se anche non sono belli come vorrei io. I miei li ha rovinati la gazzosa e un paio nuovi non posso proprio averli. Vuol dire che ne farò senza dei guanti», disse Joe, che del vestire non si curava molto. «I guanti li devi avere, sennò io non ci vengo», esclamò subito Meg. «I guanti sono una cosa, la cosa più importante di tutto il resto. Senza guanti tu non potresti danzare e io ne sarei molto avvilita». «E io starò ferma. Ci tengo poco io a ballare con gli altri, in fondo, se si trattasse di far 4 salti o 4 capriole. Un paio nuovo alla mamma non glielo puoi chiedere, costano cari e tu sei troppo sventata. Quando ha visto come hai ridotto quelli che hai, ha detto che per quest'inverno non te ne compra altri. Non puoi rimediare in qualche modo?» domandò Meg, preoccupata. «Li terrò schiacciati in una mano e non si vedrà che sono macchiati. È tutto quello che posso fare. Anzi no, lo dirò io come faremo. Ciascuna porta un guanto buono e uno cattivo, capisci? Tu hai le mani più grosse delle mie e il mio guanto me lo spacchi», disse pronta Meg, che ai suoi guanti ci teneva moltissimo. «E allora io verrò senza guanti e la gente dica quello che vuole, me ne infischio», proclamò Joe rimettendosi a leggere. «Te la darò, va, il guanto. Solamente non me lo macchiare, fa un po' di attenzione a non metterti le mani dietro la schiena, a non piantare gli occhi in faccia alla gente e a non dire porca miseria, va bene? Non stare in pensiero per me, starò composta come una figurina di gesso e non combinerò guai se mi riesce. Adesso vattene a rispondere al biglietto e lasciami finire questo racconto che è tanto bello». E Meg se ne andò a rispondere con ringraziamenti, a rivedere il suo vestito e a cantare lietamente, provando l'effetto dei merletti veri che aveva. Intanto Joe finiva il racconto, le 4 mele, e giocava un po' con Topolino. La sera di Capodanno in salotto non c'era nessuno, perché le 2 sorelle più piccole facevano da cameriere e aiutavano le 2 più grandi nell'importantissima faccenda di prepararsi per la serata. Le vesti erano semplici, ma ciò non impediva che ci fosse un gran correre su e giù, un gran chiacchierare e un gran ridere. A un certo momento si diffuse per la casa un forte odore di capelli bruciati. Meg voleva qualche riccio sul davanti e Joe si era accinta all'impresa con un paio di molle riscaldate al fuoco senza togliere i diavoletti di carta. «Devono fumare così?» domandò Beth appollaiata sul letto. «È l'umidità che evapora», rispose Joe sicura. «Che odore curioso, sembra di penne bruciate», osservò Amy, lisciandosi soddisfatti i suoi ricci bellissimi. «Ecco, adesso io tolgo i rotolini e vedrai che nuvola di boccoletti», disse Joe, posando le molle. I rotolini li tolse, ma la nuvola dei boccoli non apparve perché con la carta venivano via i capelli. La parrucchiera, inorridita, depose in fila tanti rotolini anneriti sulla tavola sotto gli occhi della vittima. «Oh, cosa mi hai fatto? Sono rovinata! Non ci posso più andare! I miei poveri capelli!» gemeva Meg, guardando disperata i piccoli ricci ineguali che le rimanevano sopra la fronte. «La mia solita fortuna! Non mi dovevi chiamare, io rovino sempre tutto! Non puoi credere come mi dispiace! Le molle erano troppo calde, così ho fatto questo guaio!» lamentava la povera Jo, guardando con gli occhi pieni di lacrime quella stoppia bruciata. Ma a consolarle intervenne Amy. «Non sono rovinati, basta arricciarli un poco e legare il nastro in modo che le punte vengano più avanti sulla fronte. È l'ultimo modo, visto che fanno così tante ragazze. Mi sta bene, imparerò a volermi aggiustare troppo. Se li avessi lasciati come erano», ripeteva Meg. «Così faccio io. Erano tanto belli e morbidi i tuoi, ma ti crescono, sai, presto», disse Beth, portando il suo bacio e la sua parola consolante alla pecora tosata. Dopo qualche altro disastro minore, Meg finalmente fu in ordine e con gli sforzi uniti di tutta la famiglia, i capelli di Joe furono tirati su e le fu infilata la veste. Le due ragazze stavano molto bene coi loro semplici abbigliamenti. Meg in grigio a riflessi d'argento, i capelli in una reticella azzurra di nastrini di velluto, le guarnizioni di merletto e la spilletta di perle. Joe in color marrone con colletto rigido di lino da uomo e per tutto ornamento un paio di crisantemi bianchi. Ciascuna si era infilato un bel guanto lucido e ne portava in mano un altro che non era pulito, ma tutte assicuravano che l'effetto era naturale e simpatico. Le scarpine a tacchi alti di Meg, terribilmente strette, le facevano male, ma lei non lo confessava. Le 19 forcinelle che Joe aveva nei capelli le sembrava di averle piantate nella testa. Due piccoli incomodi, ma cara mia, chi vuole bene comparire, qualche cosa ha da soffrire. «Divertitevi, care», disse la mamma. E le due sorelle si allontanarono molto composte per il piccolo viale che metteva nella strada. «Non mangiate troppo a cena, tornate alle 11 quando mando Anna a prendervi!» Mentre il cancello sbatteva, chiudendosi alle loro spalle, una voce da una finestra gridò: «Ragazze, ragazze, un bel fazzoletto in ordine, lo avete tutte e due?» «Sì, sì, lo abbiamo, ben stirato e piegato. Meg nel suo ci ha spruzzato la colonia», gridò in risposta Joe, e poi ridendo disse alla sorella: «Credo che mamma ci farebbe quella domanda anche se si fuggisse per il terremoto». «È uno dei suoi gusti aristocratici», rispose Meg. «E ha ragione, la vera signora si riconosce dalle scarpe, dai guanti e dal fazzoletto sempre in ordine». Lei stessa, Meg, ne aveva parecchi di piccoli gusti aristocratici nel guardaroba della signora Gardiner davanti allo specchio. Dopo un prolungato lavoro di aggiustamento, raccomandava a Joe: «Non scordarti di stare sempre in modo che non ti si veda la bruciatura. La mia sciarpa è in ordine, i capelli come mi stanno, mica troppo male?» «È inutile, sai, tanto io me ne scordo. Senti, quando mi vedi fare qualcosa che non va, strizzami l'occhio», disse Joe, mentre dava rapidamente una tirata al bavero e un colpo di spazzola ai capelli. «Strizzare l'occhio non è da persona fine. Farò così, invece, se qualcosa va male, alzerò gli occhi. Se va bene, ti farò di sì col capo. E ora, sta su dritta con le spalle, non fare quei passi lunghi e non stendere la mano quando ti presentano qualcuno, non si fa! Come fai tu a saperle tante regole? Io non ci riesco. Di, senti che musica allegra!» Discesero, un po' timide, perché di rado ci andavano ai ricevimenti. E anche questo, per quanto modesto e intimo, per loro era un avvenimento. La signora Gardiner, che era una vecchia dama solenne, le salutò con molta cortesia e le affidò alla maggiore delle sue figliole, Sally. Meg la conosceva e si trovò subito a suo agio, ma Joe, che non amava molto la compagnia delle ragazze e i loro cicalecci, stava attenta a tenere le spalle voltate al muro e si sentiva fuori di posto quanto un puledro nelle aiole di un giardino fiorito. In un altro punto della sala c'erano 5 o 6 ragazzi che parlavano rumorosamente di pattinaggio e Joe aveva una gran voglia di andare con loro. Per lei il pattinaggio era una delle grandi gioie della vita. Coi cenni fece capire a Meg il suo desiderio, ma le sopracciglia di Meg si volsero in alto con tanta severità che la povera Joe non ardì muovere un passo. Nessuno veniva a parlarle e i vicini un po' alla volta si diradavano. Finì col trovarsi da sola. Non osava mettersi a girare e svagarsi un po' per via del vestito bruciato. Mogia Mogia stette a guardare gli altri finché cominciarono le danze. Meg subito fu invitata e gli scarpini stretti si mossero tanto vivaci che nessuno avrebbe mai sospettato quali torture sopportava col sorriso sulle labbra colei che li calzava. Joe Vide un ragazzone di pelo rosso che si dirigeva da lei e per timore che la invitasse a ballare si cacciò in un recesso chiuso da una cortina, con l'intenzione di starsene là, dentro, a guardare e così godersi la festa in pace. Ma sventuratamente c'era un'altra persona timida che aveva raggiunto quel rifugio prima di lei. E Joe, appena la cortina le ricadde dietro le spalle, si trovò faccia a faccia col ragazzo di Lawrence. Oddio, non sapevo che c'era qualcuno. Balbettò e fece per uscire rapidamente come era entrata. Ma il ragazzo si mise a ridere e disse, sorpreso anche lui ma contento: Non ci badate a me, se vi fa piacere restate. Non disturbo? Nemmeno per sogno. Io sono venuto qui perché non conosco molte persone e così, sulle prime, mi sono sentito a disagio. Mi capite? Anch'io, non andate via, vi prego, a meno che non lo preferiate. Il ragazzo tornò a sedersi guardandosi la punta delle scarpe finché Joe, cercando di mostrarsi cortese e disinvolta, disse: Credo di aver avuto già il piacere di vedervi. Voi abitate vicino a noi, è vero? Alla porta accanto. Il ragazzo levò gli occhi e scoppiò a ridere. Quella Joe così compassata era piuttosto buffa, giacché egli si ricordava che quando le aveva riportato la gatta avevano parlato di cricket. Joe si trovò subito meglio, rise anche lei e disse una cosa che le venne proprio dal cuore. Era molto buono, sapete, il vostro regalo di Natale. Quel regalo era del nonno. Ma gliel'avete suggerito voi, no? Come sta la gatta, Miss March? Domandò il ragazzo cercando di star serio, ma gli occhi neri gli ridevano. Non c'è male, signor Lawrence, ma io non sono Miss March, io sono Joe. E io non sono il signor Lawrence, sono Lori. Lori Lawrence, che nome curioso. Il mio nome è Teodoro, ma non mi piace. Perché mi chiamavano Doro e allora ho voluto che mi chiamassero Lori. Anche a me non piace il mio nome, Giuseppina, troppo sentimentale. Vorrei che tutti mi chiamassero Joe. Come avete fatto a farli smettere di chiamarvi Doro? Li ho picchiati. Ah, la zia non posso picchiarla io e temo che dovrò rassegnarmi, sospirò Joe. Non vi piace ballare, Miss Joe? Domandò Lori, al quale il nomignolo pareva che andasse molto bene. Mi piace sicuro quando c'è spazio per muoversi, ma in un posto come questo io sono sicura che rovescerei qualche cosa, pesterei i piedi alla gente o farei qualche altro guaio. Perciò lascio che Meg faccia la signorina lei. E voi non ballate? Qualche volta, perché vedete, sono stato molti anni all'estero e sono qui da troppo poco per sapere come si fa. All'estero? Esclamò Joe. Oh, raccontatemi! Mi piace tanto sentire la gente che descrive i suoi viaggi. Lori pareva non sapesse da che parte cominciare, ma sotto le domande insistenti di Joe prese l'aire. Raccontò che era stato in collegio a Vevey, dove i ragazzi non portavano mai cappello e avevano una flotta di battelli sul lago, e durante le vacanze giravano la Svizzera a piedi coi loro maestri. Ah, poterci andare anch'io! Esclamò Joe. E a Parigi ci siete stato? Ci abbiamo passato tutto quest'inverno. E sapete il francese? A Vevey non era permesso esprimersi in altra lingua. Fatemi sentire un po', io lo so leggere ma non pronunciare. Quel nom a cette jeune demoiselle à les pantoufles jolies? Disse Lori compiacente nel suo francese. Oh, come bello! Vediamo un po', avete detto chi è quella signorina con quei bei scarpini? È vero? Oui, mademoiselle. E Margherita, mia sorella, e voi lo sapevate, la trovate carina? Certo, mi ricorda le fanciulle tedesche, così fresca e serena e balla proprio come una dama. Joe raggiava di piacere a sentire l'ingenuo elogio della sorella e si propose di riferirglielo. Nascosti dietro la tenda, continuarono a osservare, a criticare, a chiacchierare e poco a poco si sentirono come due vecchie conoscenze. La timidezza di Lori ben presto disparve perché il contegno maschile di Joe lo divertiva e lo metteva a suo agio. Anche Joe si sentì in breve lei, allegra come sempre. La sua veste non era più bruciata e non c'era nessuna lì che levasse le sopracciglia per rimproverarla. Il ragazzo di Lawrence le piaceva sempre di più. Se lo guardava bene, per poterlo descrivere alle sorelle, perché fratelli non ne avevano e avevano pochi cugini maschi, sicché per loro un ragazzo era una creatura quasi sconosciuta. Capelli neri e ricci, pelle scura, occhi pure neri e grandi, naso lungo, bei denti, mani e piedi piccoli, alto come me. Molto gentile per maschio e nell'insieme simpatico. Chissà quanti anni ha. Quest'ultima domanda Joe stava per farla ad alta voce, ma si rattenne in tempo e con un tatto in lei non frequente cercò di venire a scoprire la cosa per via indiretta. Andrete a college presto, eh? Vedo che sempre sgobbate sui libri, voglio dire, studiate assiduamente, disse Joe arrossendo per quello sgobbate che le era sfuggito. Lori sorrise, ma non parve impermalito, rispose stringendo le spalle. Per 2 o 3 anni ancora? No, in tutti i casi non ci vado prima dei 17 anni. Solo 15 ne avete? Chiese Joe guardandolo. Era alto e ne dimostrava già 17. 16 il mese venturo. Ah, come ci andrei volentieri io al college. A voi non piace, si direbbe. No, non mi va. Non si fa che faticare sui libri o far baccano. Due cose che a me non piacciono, al modo come si fanno in questo paese. Cosa vi piace a voi? Stare in Italia e godermela a modo mio. Joe aveva una gran voglia di domandargli com'era il modo suo, ma quelle sopracciglia nere, quando si aggrottavano, gli davano come un'aria minacciosa, sicché lei cambiò argomento e disse, segnando il tempo con un piede: questa polca è molto bella, perché non andate a ballare? E se ci venite anche voi, rispose lui con un piccolo inchino elaborato all'uso francese. Non posso, ho detto a Meg che non avrei ballato perché. E Joe si fermò indecisa se proseguire o mettersi a ridere. Perché cosa? Chiese Lori incuriosito. Promettete di non dirlo a nessuno? Prometto. Allora vi dirò, io ho la brutta abitudine di stare davanti al fuoco e di bruciarmi il vestito. Mi è successo anche con questo che ho indosso. È stato riparato molto bene, ma si vede, e Meg mi ha detto di stare ferma e così nessuno se ne accorge. Ridete, ridete pure, è da ridere, lo so. Ma Lori non rideva, rifletteva e alfine, con un'espressione imbarazzante per Joe, suggerì pian piano: se è per questo non importa. Sentite come faremo. Qui fuori c'è uno stanzone lungo, ci si può andare. Là balleremo magnificamente, non ci vedrà nessuno. Venite, vi prego. Joe lo ringraziò e lo seguì di buon grado. Quando vide i bei guanti grigio perla che egli si infilava, le dispiacque molto che i suoi non fossero in ordine. Lo stanzone era vuoto e ballarono davvero magnificamente. Lori danzava molto bene e le insegnò il passo alla tedesca che le piacque molto, così ondeggiante e vivace. Quando la musica tacque, sedettero a riprender fiato. Lori le raccontava una festa di studenti a Heidelberg. Ma il racconto fu interrotto dall'arrivo di Meg, che veniva a cercare la sorella. Si affacciò da una porta e le fece cenno. Joe la raggiunse a malincuore nella stanza vicina, dove la trovò seduta sopra un sofà, si teneva un piede in mano ed era pallida. Mi sono storta una caviglia, uno di questi stupidi tacchi alti si è rotto. Che male mi fa, mi reggo in piedi appena. Non so come farò a tornare a casa, diceva dondolandosi innanzi e indietro dal dolore. Lo sapevo, coi piedi dentro quelle cose ridicole, che ti succedeva qualcosa. Me ne dispiace, ma come si fa? O prendere una carrozza o restare qui tutta la notte? Disse Joe, che mentre parlava andava frizionando con mano dolce la povera caviglia dolorante. La carrozza costa e ho paura che sia impossibile averla. Qui molti sono venuti con la propria e per mandare la rimessa non c'è nessuno. Ci vado io. Ah no, sono le 10 passate e fa molto buio. Qui non posso rimanere perché la casa è piena. Sally ha delle amiche che dormono qui stanotte. Sai cosa farò? Me ne starò ferma finché viene Anne e allora vedremo come si potrà rimediare. Lo dico a Lori, lui ci va, disse Joe ed ebbe un sospiro di sollievo per la buona idea che le era venuta. No, cara, va subito e portami un po' di caffè. Sono così stanca, non posso muovermi. Meg si adagiò più comoda che poté nascondendo le scarpe di gomma. Joe partì in cerca della sala da pranzo che riuscì a trovare dopo qualche errore. Prima capitò nel ripostiglio delle porcellane, poi aperse la porta di una stanza dove il vecchio signor Gardiner stava rifocillandosi da solo. In fretta raggiunse una tavola, si impadronì di una tazza di caffè e se la rovesciò immediatamente sul vestito, riducendolo davanti in uno stato non meno deplorevole che di dietro. Ah, signore, che flagello che sono io! Esclamò fregandosi la veste col guanto di Meg e conciando a dovere anche quello. Posso esservi utile in qualche cosa? Disse una voce amica e comparve Lori con una tazza di caffè piena in una mano e un piatto di ghiaccio nell'altra. Ero andata a prendere qualche cosa per Meg che è molto stanca e qualcuno mi ha urtato e ora eccomi qua ridotta così, rispose Joe smarrita mentre guardava alternativamente la gonna macchiata e il guanto color caffè. Che peccato, stavo cercando una persona a cui volevo portare questa roba. Posso andare da vostra sorella? Oh, grazie, vi ci accompagno io. A portare il caffè non mi arrischio, farei un altro guaio. Joe fece strada, e Lori, come persona avvezza a servire le signore, accostò un tavolinetto, andò a prendere caffè e ghiaccio anche per Joe e fu così gentile che anche Meg, difficile com'era, lo trovò carino. Si divertirono coi cioccolatini e i bigliettini col motto e mentre stavano a godersela Katie, tutti e tre, e con qualche disperso che li aveva raggiunti là, avevano cominciato un giochetto di società. Arrivò Anna. Meg si era scordata del piede distorto e si alzò così pronta che dovei immediatamente attaccarsi alla sorella, soffocando un'esclamazione di dolore. «Zitta, non dirlo a nessuno!» le bisbigliò, aggiungendo ad alta voce. «Oh, non è nulla, una storta da niente!» E zoppicando un po', salì al guardaroba, al piano di sopra. Anna brontolava, severa. Meg piangeva. Joe non sapeva che pesce pigliare, ma con pronta decisione presa lei l'iniziativa, se la svignò, scese di corsa tutte le scale e si imbatté in una persona di servizio a cui chiese se poteva avere una carrozza. Ma la persona era di quelle prese per la serata e non era pratica del quartiere. Mentre Joe si guardava attorno disperata, ecco arrivare Lori, che aveva udito tutto, e offerse la carrozza del nonno, che disse era venuta a prender lui. «È troppo presto, non è possibile che voi già vogliate andar via», cominciò Joe molto sollevata ma dubbiosa se accettare o no. «Io sempre vado via presto, ve l'assicuro, vi prego, lasciate che vi deponga a casa vostra, è sulla mia strada, lo sapete, e poi piove, mi hanno detto». Non c'era da replicare. Joe gli confidò l'incidente capitato a Meg e salì a prenderla di corsa. Anna odiava la pioggia, peggio di un gatto, sicché non trovò nulla da ridire e tutti finirono col partire in una magnifica carrozza chiusa con grande solennità e distinzione. Lori montò a cassetta perché Meg potesse tenere la gamba distesa sul sedile davanti. Così le due ragazze parlarono liberamente della serata. Joe si tirava i capelli indietro e si metteva in libertà. «Mi sono divertita un mondo io», diceva. «E tu?» «Anch'io, prima di farmi male. L'amica di Sally, Annie Moffat, mi ha mostrato molta simpatia e mi ha invitato a passare una settimana da lei quando ci va Sally. Sarà per questa primavera, quando a teatro c'è l'opera. Sarà magnifico, purché la mamma mi dia il permesso». E Meg si rallegrava tutta a quel pensiero. «Ti ho veduta che ballavi con quello rosso, quello che io sono fuggita perché mi pareva volesse invitarmi. Com'è? È simpatico?» «Oh, molto! Non li ha mica rossi i capelli, sai? Li ha castagno ramato. È molto gentile, abbiamo ballato un valzer polka delizioso. Quando faceva quel passo nuovo pareva una cavalletta furiosa. Lori ed io, non ci si poteva tenere, ci hai sentito? Ridere?» «No, non ho sentito, ma non stava affatto bene. Cosa mai avete fatto nascosti tutto quel tempo?» Joe glielo raccontò e intanto erano giunte a casa. Scesero, ringraziarono moltissimo Lori, gli diedero la buonanotte e cercarono di infilarsi nella loro stanza senza disturbare nessuno. Ma appena la porta cigolò un poco, due cuffiette da notte balzarono dal loro lettino e due voci assonnate, ma ansiose, supplicarono. «Raccontateci, com'è andata?» Joe aveva fatto una cosa che Meg trovava molto scorretta. Aveva messo da parte alcuni dolci per le due piccole che, fra i dolci e una sommaria relazione degli eventi più eccitanti della serata, ben presto si chetarono. «Ah», disse Meg, «mi pare proprio d'essere una gran dama. Tornare dal ballo con la carrozza privata e mettermi in veste da camera con una cameriera per servirmi». Joe, dopo averle fasciato il piede con un impacco di tintura d'arnica, le andava ora spazzolando i capelli. «Non credo affatto che le grandi dame eleganti si divertano più di noi, con tutti i nostri capelli bruciacchiati, i vestiti vecchi, un guanto a testa e gli scarpini della tortura che fanno prendere le storte a chi è tanto scemo da metterli». E secondo me aveva perfettamente ragione Joe.